c'è niente, senti, aspetta che tolgo tutto, aspetta. Hola. Hola, hola, hola, 1, 2, 3, prova. Tutto normale, Massi. Un raggio che farà, Dodò. Appena appena si sente leggero, leggero. Però nel 45 non si sentiva. Cioè, è vero, appena appena, no? Sì, ma leggero, leggero. Niente di... niente di checche. Ma non ci deve essere, aspetta, mi sposto un paio di canali. Che deve recchere? Avanti. Buonasera. Buonasera. Oggi siamo di poche parole. Ciao Gianni, avanti. Ciao Doppio, buonasera. Guarda che ho rimesso la boomerang e ho aumentato un cc la potenza. Già vai bene, dai, va benissimo. Claro che sì, ok, dai. Adesso lo strumento segna picchi avanti, non indietro. Sì, sei oltre il 9, sei 9.15, dai, io c'ho il Midland, non è che segna, dopo il 9 non è che segna bene, dai, sei sui 9.15. E anche qua, già, quasi 9.20, sì, mentre prima è 9.10, con picchi a 9.15, adesso sì, 9.15 abbondante con picchi a 20 quasi, quindi è aumentato, te l'ho detto, 4 punti S, lascialo così a 8 watt che è meglio di usarne 3, tanto non hai lineare, non hai niente, lascialo così, va bene. No, già questo cacchio di tempo, cioè non puoi aspettare fine settimana, io tutta la settimana sto lavorando, amici, non penso, arrivo la mattina, ce l'ho impegnata, è comunque un'impresa e sto trottando anche perché c'è 4 cantieri aperti, uno abbiamo visto anche stamattina di punti, e quindi sto cazzo tutta la settimana lavorando, impegnato, arrivo sabato e domenica, andarmene in campagna, queste giornate di merda a me mi mettono nel rosso. Cosa stai facendo con l'impresa, Claudio? Il mio lavoro sto facendo, assistente sono io, e io ho il diploma di geometra. Pagato. Di nuovo a lavorare. Mattina già solo, è un mio ex collega di scuola, ci siamo trovati assieme, insomma, una bellissima impresa, ha fatto dei lavori qua eccezionali, con la scala aerea, fa lavori condominiali, capito? Facciate, queste cose. Poi c'è un sacco di cantieri aperti. Adesso ne abbiamo chiuso uno, gli ho fatto proprio le relazioni di chiusura lavori giovedì, mi pare, perché c'è la direzione lavori lì a Canopoleno. E quello è chiuso. Poi c'è l'altro in via Lunesole. C'era questo che ancora è in chiusura, non è stato relazionato ancora, ma quello è il compito dell'amministratore. Poi siamo andati stamattina a vedere un cantiere di punti anche abbastanza grosso, sono sei villette a schiera lì in via Era, capito? Tutto da rifare, capito? Vabbè, io non mi occupo di edilizia, però siccome so fare quello che facevo davvero prima, la contabilità e gestione di impianti, di cantieri, di queste cose così, sto facendo quello. Mi paga per fare quello, perché i capicantieri ce li ha, cioè il capocantiere ce l'ha, però di solito ci sto quasi sempre io, ma niente di particolare. Già, guardate un minuto, io riprendo subito. Sì, ma signora, cosa hai detto già? I lavori condominiali da voi, dei mollati? Mollati, ci abbiamo finito, stavamo da luglio dell'anno scorso. Abbiamo fermato ad agosto, abbiamo ripreso a settembre, siamo quasi d'ora a settembre, quasi un anno. Abbiamo finito la settimana scorsa, solo che non li ho ancora contabilizzati, capito? Adesso c'è un altro pezzettino in fondo, proprio alla fine del palazzo, da vedere due cordole, due poggioli. L'autoscala però l'ho fatta portare via perché serviva da altre parti. E poi oggi propagazione, niente. Oh, stamattina c'era qualcosa, adesso niente, no, sta cambiando il tempo, non ce n'è propagazione. Se non c'è giornata bella di sole, cazzo, vuole un vento, un allucinante. Adesso speriamo che lunedì non piova, perché lunedì c'è la piazzarella, un ponteggio da 6 metri, piccolo però, sempre fastidioso, sempre 6 metri sono. Esterni a giardino, perché lì la Toscana non ci arriva, perlomeno ci lascio gli alberi in mezzo, quindi non passo il braccio. Allora, per non tagliare gli alberi facciamo un ponteggio, però speriamo che non piova, speriamo non ci sia vento. Una rottura di palle fa tempo, adesso marcare il dai. Che Danielo? Buona a tutti! Salutoni circolari! Daniele, buonasera anche a te! Ciao Daniele, buonasera, ben ascoltato. Avanti Gianni. Eia, ciao Daniele, ben entrato. Io stamattina ho smontato l'antenna, per cui te l'ho rimessa, te l'ho sistemata come me l'hai data ed è pronta a tornare alla sua casa, ok? Cappa di roll, metterò già. Se ce la faccio domani passo e ti avviso prima. Andavex, ok. Sì, comunque con la Puma fai bene. Fai bene, ottimamente bene, non c'è problema. KK. C'è la prima Puma che vedo che va bene. Io la verità ne ho avuto due o tre, mi davano un bel stazionario, non c'era verso regolare. E più erano direzionali, non erano così. Si sente bene da tutte le parti. Sì, ma qua non si è modificata, c'è lo stile lungo da 2 metri, quanto è? 2,75, quanto è quell'elemento centrale? 3 metri e 10 credo. Gli hanno venuto, no? Già. Quelle che compravamo noi, quelle con lo stile mere, così era 1,50 m, quello è grande, c'è lo stile un bel alto. E funziona molto bene, dico che qua arriva 9,15, quasi 9,20, te lo sto dicendo, uguale all'altra, anzi adesso anche di più perché la potenza della radio è aumentata. C'è la ricezione, mi ha detto che è più bassa. E vabbè, la ricezione, se uno lo ascoltavi Santiago 9, lo ascolti Santiago 8, poi già ti cambia, non ti giamba nulla, l'importante che lo senti. Beh. Così è già. Guarda, effettivamente devo fare la comparazione quando in una giornata dove c'è molta propagazione tipo avanti ieri, allora ti saprò dire le reali differenze, perché fare il paragone con oggi dove di propagazione non viene nulla, sarebbe sfalsare il confronto, capito? Sì, vabbè, ma il segnale nostro, hai notato differenza nei nostri segnali? Non di certo Gianni, magari ce l'hai troppo vicino, ma il mio segnale è sempre uguale? Assolutamente sì, i segnali vostri sono tutti uguali. E la cosa cambia? Che comparazione vuoi fare in propagazione? La propagazione ci può essere lo skip corto e lo skip lungo, nel senso che la propagazione può essere lunga e corta, quindi tu come fai a precisare, nel senso che fai una comparazione così? La propagazione può essere, per parlare chiaro, alta e bassa, tu devi guardare i segnali nostri. Se noti differenza ai nostri segnali vuol dire che c'è un calo di ricezione, ma se i nostri segnali sono rimasti come quelli di prima, allora l'antenna non è altro che simile a quella che avevi, solo con meno rottura di balle. Sì, questo è chiaro. Sì, vabbè, da neofita mi stavo basando su quello, no? Poi giustamente, come dici tu, ci sono anche altri parametri da considerare, però dico da neofita volevo provare a cercare di, insomma, anche se il paragone è tutto discutibile, però volevo provare praticamente in un'altra giornata, una buona giornata di propagazione, per vedere, insomma, se c'era tutta questa grandissima differenza. Poi lo so che a livello tecnico no, le misurazioni si fanno così, comunque è a livello proprio così papale. Sì, per vedere se però la propagazione ti arriva sicuramente, perché può essere alta, bassa, nel senso lunga, corta, e quindi è chiaro che senti lo stesso. Va bene, avanti Daniele, ripeti. Anda bene Veda, oggi è la propagazione zero, si sta mettendo male il tempo di nuovo. Un male che rivenga al tempo, questo mese così brutto, questo maggio, guarda, una rottura di balle mi sta creando un sacco di problemi, c'è un sacco di cose da fare in campagna, adesso poi vabbè, anche al lavoro la mattina, come ti ho detto, no? Con l'impresa, speriamo che non piova, perché non è lì, dobbiamo piazzare, sta facendo, lo fa Gianni, un punteggio non molto alto, però se c'è vento e pioggia non si può fare, e quindi rinvia ancora, vai no a mare ragazzi. Non ho voglia di arrivare il tempo bello. Già l'abbiamo fatto primavera, adesso mi finta questa ondata di alti e bassi, vedrai che arriva il caldo di botto, mi siamo già in estate. Ehi, si arriva, ben venga. Quanto noi facciamo lavori estremi, quindi il tempo bello è quello lì. Vabbè, noi, loro li fanno, io guardo a loro. Avanti, doppio rum. Ehi, adesso vediamo, là, se più tardi, ma di solito verso le 8 qui si apre un po'. Sì, ma c'è vento, c'è... sicuramente si è abbassata anche la temperatura, perché c'è la finestra aperta, non è che stia entrando caldo caldo, capito? Quindi, come si abbassa la temperatura, diventa nuvolosa, si mette il vento, propagazione molto difficile. Vediamo, comunque, ho dato acqua domani e anche lunedì. Vabbè, meglio così. Meglio così, vuol dire non fermo nulla. Io mi sposto un attimo, vado al tabacchino a pigliarmi le cartine che le ho finite. Che testa deve fare? La canna? Ehi, la canna, no, vabbè, c'ho il tabacco, il trinciato. Ho finito le cartine e devo andare a pigliarmi le cartine. Certo, vai, compra le rizza. Ehi, vai a desimettere il tabacchino. C'ho cazzo un'ansia addosso allucinante. Porca puttana. Stai sereno. Sì, già, stai sereno, voglio vedere a te. Con delle cose da fare, certe, e non hai però la... Come si dice? Non so neanche come si dice. Un programma che... dalla settimana scorsa che mi sta tormentando il cervello, però non ho, come si dice, già non so cosa vuoi dire, sta tormentando il cervello ma non riesci a realizzarlo, non riesci a portarlo avanti. No, non la mia testa mi dice di non farlo, mi capito? Di non farlo, si è uscitati tutti in pari. Tutti in pari. A casa mi sto dicendo già. Però non me ne vorrei pentire, cazzo. Venderla o non venderla, cazzo. Quello è, non riesco a. Neanche stamattina di nuovo una telefonata. Allora andiamo in banca lunedì, ora cazzo. Mamma mia come sto. Dammi del tempo, vai, devo ancora... Sì, ma dai, ma mi serve qui, ho i soldi pronti. Cazzo, se poi me ne appento, me ne mangio la testa. Sono cose... Vabbè, claro, stavi cercando, ma adesso che l'hai trovata, dici... sono in difficoltà, e non so... sono cose che tu non puoi prevedere, bisogna o buttarsi oppure mollare, se ti butti puoi avere anche altre conseguenze, nel senso che magari non ti trovi bene, dove vai, eccetera, eccetera. Se non ti butti, ti tieni da casa, però non la vedi, stavi cercando per bene, ma ti dà un po' tempo fa. Non sai qual è il problema, io faccio un ho troppi ricordi, troppe cose, non è quello il problema, no. Già, c'ho anche l'altro in via di San Francesco io, che mia moglie è quella, perché trovavano due mansarde, una è stata venduta e l'altra, quella mia cognata si era venduta, nonostante abbia dovuto avere la parte lo stesso, no, mia moglie, però l'altra che è stata divisa è... erano di 120 metri quadri l'una, 240 metri quadri è tutta aperta, quindi si è stata messa la porta per separare nel corridoio, quindi c'è due appartamenti e c'ho anche quello, volendo me ne vado io da domani, nel caso non mi piace stare in campagna, però non riesco a decidere, non so cosa fare, non so. Sera a te, cordialità e la stazione doppio rum della città di Sassari, Nord Sardegna, avanti. La tua città, Fasiti, amico della Grecia. Qui siamo in Sardegna, Italia, avanti. Ti chiamo io, vamos, così ho detto, vamos, sud della Grecia. Sì, ciao, buonasera anche a te, sud della Grecia, vamos, così hai detto che il tuo nome, Number City, Number, ho capito la città, vamos, sì, vamos, si chiama, così ha detto. Gava, da, rientrato. Sì, che c'è la propagazione. No, ma è 45. Lo dico qua. Sì, già qua è diretta la propagazione, quando uno ti sente... così lungo, ti sente parlare, ti chiamano, non è come il 43, come sono tutti accavallati. Hai capito quello che ho detto? Non riesco a decidere. Penso se c'è la corrente adesso. Mi ha fatto in società di tutti in pari. Tutti assieme, tutti. Ne ho tre che ci hanno i soldi tutti, ma non riusciamo, anche mia moglie è così. Mia figlia ha detto fate voi, a me non mi interessa. Ma anche mia moglie è così, non riusciamo a decidere. Eravamo così entusiasti di vendere, allora che la gente di lavoro, certo non riesco a decidere io. Ma ci mica, faccio un capo a buon buglione. Ci vede che questo periodo si è preso, Hai capito? Ecco, ho fatto la giudizia. Non mi sta impegnando molto Andrea, infatti mi sto attaccando un po' troppo a... lavoro di nuovo, ero molto più rilassato prima, perché sono fatto così, non c'è niente da fare, quando c'è un impegno, così ero al lavoro, arrivavo a casa che ero fuso, non capivo un cazzo, adesso con Andrea siamo partiti a fare due cosette, mi ha praticamente dato tutto in mano la situazione, non ho problemi di niente, però mi sto impegnando troppo, il Rugabu non mantiene più, anche perché ho cose mie da fare e quindi sono un po' fuso, hai ragione. Io, mamma mia, adesso. Ciao già, che non ti ho salutato prima. Ah, ma si via, ma non ti avevo sentito proprio io. Cava gara. Adesso che hai la fortuna di vendere lo vuoi vendere e buttati, no, se hai fatto questa innovazione, questa cosa in campagna, buttati e via. Se ritieni di andare d'accordo eccetera eccetera, perché anche la convivenza con vicino ad altre persone è sempre buca. Lascia sempre il tempo che trova, là. Se non c'hai un carattere che magari vai d'accordo. No, ma lì dove ho il mio obiettivo, cioè tutto tranquillo, non è quello il problema, cioè tu ti adegui, è che sei distante, sei sempre in campagna, come ha detto Massimiliano, ne ho già parlato anche con lui. Però ti ripeto, l'appoggio io ce l'ho lo stesso, perché c'è la casa di San Francesco, la parte che è toccata a mia moglie è libera, è sfitta, non c'è nessuno, è anche molto bella, tra l'altro vabbè, è una palazzina storica, vecchia, proprio è di fronte alla chiesa, quel palazzo che c'è, è una palazzina a tre piani, c'erano due mansarde a 120 metri quadri l'una, una è stata venduta, e l'altra è quella che è aspettata a mia moglie, capito? Quindi in alternativa, nel caso non sto bene in campagna, però a me piace troppo la campagna, troppo. Però, vabbè. Comunque mi ho preso un altro mese di tempo, adesso vediamo. Ne ho tre acquirenti, tre che mi sono ammazzendi, nel senso che ci hanno già tutto pronto, capito? Hanno il mutuo approvato, hanno i soldi già in tasca. Mi piace questa zona perché è una zona un po' staccata dove non c'è confusione, dove entri e esci in macchina da Sassari senza fare molto casino perché c'è la circolazione, via l'Italia si fu, lavorano tutte e due, uno lavora mi sembra a Porto Torres allo stabilimento, l'altro mi pare che lavori a Predanieda, quindi sono questa zona le va bene. Però se qui allora che non riesco a bugare invece. Va bene. Daniele, mia Massimiliano. Ciao Massi, buonasera. Ciao Daniele, buonasera anche a te. che sono entrato nel periodo che tu non c'eri. Veramente, lo giuro, stavo abbeverando. K di Rosmetro, va bene, va bene. Bisogna che mi trovo un frigo piccolino a mettere qua. Sono arrivato. Gava, che mi trovo anche una bella scrivania, come dico io, che il suo mobile non mi piace. Lì era fattibile fare un lavoro a mensola, secondo me, poi non è che c'hai grandi cose da mettere, no? Come avevi detto, come due radio, o tre radio, e boh, in fila, hai mettato le sciotte di fianco, due mensole altezza, fricche ballacche del colore della ciglia che hai, larghe, un pochino larghe, staccate leggermente al muro per far girare i cavi dietro, come avevo fatto io quando ero al nono piano qua, capito? Ma avevo preso una cosa del genere, una vessaia del genere, con due pilastrini, e da un pilastro all'altro avevo fatto due mensole larghe, ci stavano benissimo le radio, tranquille. Sì, ma già ne stavo parlando, e adesso quest'estate, adesso farò vedere figli, ci penso dove organizzarmi, là. No, meno che non mi piace. Sì, già. Era un'alternativa provvisoria, ne abbiamo già parlato, però rispetto a quel mobile lì io avrei messo, avrei fatto due piani di messa, capito? Due piani basta, due piani, con quella distanza lì del radio, una a fianco all'altra, bene calcolato, ben fatto, io me l'avevo progettato e fatto io, capito? Forse sicuramente meno problemi, non lo so, vabbè. Vai da lì, avanti doppio rum. Vabbè dai, già si deciderà piano piano. Poi te può portare consiglio. Vabbè, già, io non è che voglio mettermi chissà che cosa. Cioè qua è una cosa tipo come ce l'hai tu, chiudi gli sportelli e non vedi niente, però a me da senso mobile non mi piace. Se lo fai da Giulietto. Perché io rimane caccarà, ti faccio. Si vede Massimiliano facendo lavori di fagnameria da sciuto giù. Faceva la base quando era nell'altra cosa lì. Dove si è fatto la canaletta alla figlia dell'aereo. Bello veramente quel mobile, sembrava un mobile comprato. E lo so che non è bello avere queste cose, però già l'ha fatto perché ce l'ha in un posto dove non è bello da vedere, quindi lo chiude tutto. Anche lì va bene, ma sceglia, però quel mobile no, avrei preferito della mensola, tanto che rega da sa. Non è che sale gente esterna, gente di fuori, gente che non ti conosce, gente di casa, la maggior parte che fa quel tragitto lì, quindi cosa di nafutti. Tornato sono. Sì, ma a me il camaletto mi piace, più forte di me, anche se sono chiusi, però capita di invitare un amico, fare vedere la stazione, devo entrare in camaletto. A me non mi piace, devo essere sincero. Io qua chiudo la porta, la camera da letto rimane chiusa, io sono in una sala piccolina, capito, va bene. Chiudi le porte e si fa i vatti due, là. Puoi far salire chiunque, ci sono i divani, la televisione, io lo sai, no? In camera letto si fanno altre cose, non si parla al baracchino. Bravo, camera art. Vabbè, due buoni pure lo gomo, sono andato a fare una gaggata, ciao. Ciao. Invece faccio l'uno e l'altro, vi sai? Ciao zio. Vabbè, da tutto che puoi. A me non funziona così. Vabbè. Ognuno fa le sue discerte. Io, siccome ho le mie motivazioni, devo stare sdraiato perché ho problemi, eccetera, quindi l'ho fatto apposta per quello. Ognuno guarda quello che, diciamo, che gli conviene fare. La cosa che devo stare sempre a riposo, quindi mi corico e parlo al baracchino e non c'è altra cosa migliore. È chiaro che sì, vabbè, io sono andato di lusso, non ti ricordi già quando ero via Pasqua e dovevo la radio, anche quella è stata una scelta, capito? E venire qua e avere la mia, quando prossimo ordine sciocci di avere questa mia stanza per i fatti miei, porta centrale chiusa, non si sente, lo stanno guardando la televisione, io la sto guardando qua dentro, chiudo tutto e si è a posto, e può venire chiunque. C'è un divanetto su mi Massimiliano, quello che c'è su mansarda, piccolino, però non lo voglio mettere qua, intanto già. Però ci sta anche il divanetto col salottino, nel senso ci sono due poltroncine per quando ricevo gente, capito? Però non occupa troppo spazio, si sta così bene con una base solo. L'altra è su, non te la posso dare quella Massimiliano, sennò quella è ideale. Quella è ideale, una base così come me l'ha fatto Giulio, se te la fai così è ideale, con i piedi. C'è, questa che ho io, c'è praticamente la cerniera, no? Piantone, tesserata al muro, cernierata, se io stacco i piedi, questa si abbassa e va a appoggiarsi al muro, una cosa così li devi fare, sai quanto viene bello. Sì, mi stai dando un'idea, capito. Mi stai dando un'idea a spostarla da qua, sì, vabbè. Caro Marco, ti sei messo alla radio pure. Sì, accogliere la gente, champagne, bicchierine, e metti lo salottino anche lì. E allora? Ho già sta qua sempre a mettere le balle, poi ce ne sta sopra il divano, che se non vuoi nuovo per il divano. Il mio socio è se non vuoi lupo. Infatti non volevo scendere, o l'ho portato qui. Non so, vediamo. Sì, guarda che quando vieni te la faccio vedere come è fatta questa. C'è la base tassellata a muro, e poi questa c'è nerato, capito? Giulio l'ha fatto così, perché se io devo fare dei lavori qua in stanza, per dire, tappeteria, di dintorno, qualcosa, mi tolgo tutte le radio, abbasso i piedi, i piedi sono pieghevoli, piego i piedi e questo va ad appoggiarsi al muro, capito? Non c'è bisogno di smontare tutto. Una cosa fatta bene, questa l'aveva progettata lui così, e poi l'altra base che andava a L, però l'ho tolta, poi intanto radio le tutte eliminate, capito? Ho scelto una base sola, almeno posso aprire bene la finestra perché prima apriva a metà. Vabbè, Pino Muscolo, che si dice? Niente di che, me. Stavo giocando a pallone col bambino, ogni tanto una nespola al volo, e così, e sono entrato. Va bene, va bene. Gianni, lo profetta, riprendi. Ehi, ciao Tino, buonasera anche a te. Chi ha segnato, chi ha vinto? Sì, non lo sai, lui. Io sono quello che sta con lì. Ok. Non avevo dubbi. Lui era sotto l'albero del re, vuole mangiare, no? Faceva il portiere. E allora? Benvenuta. Ascolti, tu non c'eri ancora, insieme ai miei due maestri ho tirato su un po' il gas della radio. Guarda se a te si muove qualcosa o sei tutto come prima. Qua io, per me va bene, però sto usando un'altra radio, quindi dovrei sempre fare un'operazione là. A futtidini, dai, quando capiti con l'altra lo facciamo, no problem. Ma la radio o il VAT? Il VAT, il VAT. C'è anche Daniele in parcheggio, vai Daniele. Qua sono io, già vi sto ascoltando, dai, sto guardando un po' le previsioni del tempo. E la donna la sta diluviando. Dove? Dalle parti di sulla 131. Neanche tanto molto l'acqua sta diluviando. Va bene, ci siamo, ciao Dani. Prova, io. 1, 2, 3, la Peppina fa il... Sì, appena. Un pochino di più hai migliorato. Ok, grazie. Di come sei uscito tu e tratto uno dalla griccia? 9.15 signora. Prima di 9.10. Ok, claro che sì, va benissimo, ok. Perfetto. Oddio, ma l'hai ricevuta quella cosa che ti ho dato su WhatsApp? Sì, ma non ho capito però già, Ma hanno partorito di nuovo? Minchia, cazzo. Ma come siamo, come conigli? Vanno su diverse coppie comunque. Oh, che c'è sto gigante, caconiglio? No, Giulio, ma aveva partorito da poco, Giulio, come entri i conigli, Giove? Praticamente stanno sempre trombando. Tanto ti offre il gas, mamma mia. Che cosa? Cricetto M, cazzo, un cricetto un po' più grandetto. Tu sei quella che ho io, non le conosci le peruviane? Sì, cos'è la peruviana? Non è la famiglia Cricetti? No, è un roditore, ma non è della famiglia dei Cricetti. È tutto peloso, è diverso da Cricetti. Beh, diciamo, mi Massimiliano ha fatto la foto della quella grande, sembra un coniglio, che è molto bella, molto molto bella. Belli. Vabbè, ti aspetta, se stanno sempre trombando, si accoppiano, e va bene così. Daniele, tu non ti sei accoppiato? No, adesso no. Io ho già dato clavo, basta, stop, finito. Non ti stai più agganciando? No, sganciato. Sganciato e parcheggiato pure. A me mi è cresciuta l'unghia. Cazzo, sei sempre agganciato e Tino, che sempre agganciato e... Calabria della Vespa. Sì, è una maglia della Iana. Io, gara. Tu invece no, non sei agganciato, no. Ah, ma chi sei, signorino? Ah, bella così, no? Vamos a trenda. A me si sente. E allora che se così sente, ah? Ma chi sei, signorino? Ah? Ah, io c'ho sonno la notte qua. Mira mazza, te ne vari, via. E vabbè, cosa ti fa? Cazzo, va Federica, la mia buona amica. Allora, ma chi hai allontanato la bicetta, ah? Tutte le notti da cazzo, se poi dice Romanzano c'è tutto accunnato, un c'è scavatore, fende equilibrista. La mattina mi sta venendo pesante alzarmi dal letto. Devo cambiare mestiere qua. Mi sembra che venga a dare la mano a quella ditta dove sei tu, a mia moglie. Guarda, se Andrea dovesse prendere lo scavatore sei il primo a fartelo sapere, tranquillo. Ma no, non penso, perché lui l'impresa che ha è proprio, cioè, hai visto quella autoscala che ti ho fatto vedere, poi una altra piccolina, quando deve prendere quelle grandi le prende lì alla Novalt, c'è molti lavori di ristrutturazione facciata, costruzione ne ha poco, ma in questa lì di punti è bella, Riviera, quelle case a schiera che ci sono, dove c'è il supermercato, tutte da fare, 8 sono. Allora già c'è da fare, è pieno di travaglio, è pieno di lavoro, e 8 ne hanno i dipendenti, 8 dipendenti c'è, cioè. 8 dipendenti, c'è un capocantiere, vabbè, anziano, grande, avrà un 65-66 anni, molto bravo, molto Giuseppe. Muratori molto bravi, sono tutti muratori con il patentino per l'autoscala Massimiliano, non sapevo ci voleva il patentino. Per forza ci vuole il patentino, se no non te la siedi l'autoscala. Tu per praticamente con l'operatore, capito? Perché quella che hai visto parcheggiata sotto, quella lì, c'è proprio scritto, noleggio con operatore. A volte la va anche a noleggio, però deve mandare l'operatore suo, capito? Va sempre Matteo Giuseppe. Sì, vabbè, la può dare all'uovo a freddo quella, capito? Senza l'operatore, l'operatore che la usa però deve avere il patentino. Esatto, ma su per giù mi stava dicendo che la chiedono sempre con l'operatore. Vabbè, no, non ne ha, però... Vabbè, anche quelli servono, Certo che sì. Avanti Gianni. Eia. Ma cosa volevo dire? Daniele ha detto che sulla 131 stava piovendo, ma in che zona? Campera? Lo sto cercando, non lo trovo più adesso. Che l'ho letto prima e non adesso mi metto il catto. Va bene, ma speriamo bene, dai. Ce l'ha messa la pioggia. Fine settimana. Ci vuole, no? Adesso che stava iniziando a asciugare un po', che si è rotto veramente le balle quest'acqua, ha messo anche per lunedì un po'. Sto dicendo che io quindi sono lì via Cosato, non c'è poco fa, in via delle Atlante, via 37 abbiamo chiuso, e c'era a fare un ponteggio di 6 metri, sarà 6 metri e mezzo, ma cosa c'è? C'è la fa due poggiori, siccome quell'autoscala che hai visto non passa in mezzo perché sono degli alberi e non vogliono tagliarli, noi invece abbiamo tagliati, quindi però se piove è un casino, vabbè, io ho giù. giudito, se piove manco mi muovo di casa io, non ando a Lucco. E mi devo baracco. Non ci faccio niente, intanto se piove non si lavora, cosa. È una ristrutturazione dei poggioli, cornicioni, tutte cose. Sotto cornicioni, lavoretto. Se piove non vuoi fare antica faloscia. Sale lui e io faccio appello al buio che lo voglio qui. I ragazzi tutti presenti, cassa integrazione. Se ci conferma, là. Va bene che bene. Dino, riprendi, io mi sento un secondo, devo scendere giù per forza, mi facciamo da lì. Aspetta che ho gente a casa, sto salutando, un attimino. Io, chiaro che sì. Va bene, va bene. Vabbè, non ci pensiamo proprio giù, andiamo avanti, forse non ho le idee ancora molto chiare, vabbè. Lo so, siamo a stare giù un gabbo e si continui così, devi prendere la decisione, naturalmente... vedendo ciò che c'è dietro sempre. E lo so, ma quando hai queste cose non hai chiarezza, non hai capito, troppi ricordi, troppe cose, non so, forse sarebbero rientrati di brutto, però non me la futti nulla, e quindi ci pensiamo, dai. Non troppo, se no ti mandano giù un capo. Avvattiti. Notti non c'è gente. Io lo so. È quello. Se non sto dormendo la notte. Mi sembra una cosa allucinante, cazzo, di miliardi proprio. Perché non sai cosa fare. Ho avuto anche una discussione stamattina con mia moglie. Non sai cosa fare. Vabbè, avanti Daniele. Capa di Rosmetro! Aspetta un secondo, mi stanno chiamando, già arrivo subito. Sono tutti giù che chiamano, cazzo. A me mia moglie se c'ho la porta chiusa, cazzo, ma non vedo l'ora che rimanga tutta la sera chiusa qua, ma non mi vede, cazzo. Vai, dove? No, è il piccolo che mi cerca. Ah, il piccolo, e allora vai, non c'è problema. A me c'è la grande, io già a casa, che ho riposo. Avanti, dove? Benemera. Cosa volevo dire? Mi è uscito di mente. La storia del portatile. Il portatile mi sta pensando ieri, cosa c'ha? L'antenna quella in gomma o lo stilo quello che si allunga? Gomma, in gomma già. In gomma. E non è manco lunga, è corta, dai. Pochi centimetri. Ah, ma già va bene, a te ti sentivo un bel chiaro, proprio forte, bello, chiaro, no, si sentiva bene, è una ricezione molto bella. Ascolta, mi sembra che te l'avevo mandata la foto del mio, dell'Alan 38, mi sembra, non so se lo sai, perché come apparecchio, se quello che sto dicendo io dovrebbe essere molto simile, cambia solamente la buccia. Qui è l'Intec. È l'Intec, che non costava manco molto, mi sa. Sì, dico, allora, simile all'Alan 38, c'era un progetto che faceva anche la Intec, cioè internamente erano uguali, cambiava la buccia esterna, però a livello elettronico gli apparecchi erano uguali. Non lo so, non penso però, perché l'ho avuto anche io quello che c'hai tu, e non era uguale, perlomeno, esteticamente no, poi non lo so se come dici tu all'interno erano uguali. Ma va molto bene quell'apparecchio, ti sto dicendo che ho parlato a Porto Torres dalla strada nuova che c'è, che porta da Via Mores sino al monte, quella che sale su, quella strada nuova lì. Io la chiamo strada nuova perché prima non c'era, dai, però è già aperta già da un po'. E praticamente con la strada lì arrivi, ne faccio un pezzettino piccolo e subito sento bene. Come trovo il varco per passare? Infatti ieri il segnale andava da 1 a seconda della zona libera, si è arrivato anche a 5 qua. Vabbè, se quando c'è col cane non cammini, quindi non è che puoi fermarti in un punto, quello tira, fa. Certo. Mica sei sceso a modulare, sei sceso a fare la rogare, quindi capisco, capisco. Già, più o meno ti sentivamo tutti, anche Claudio e Daniele. Chiaramente Claudio a livello di antenne è messo molto meglio, quindi riusciva, e poi anche la posizione, riusciva a ascoltarti bene lo stesso, vero Claudio? Sì, sì, ma lui lo sa, abbiamo già fatto le prove, purtroppo io sono molto distante, perché l'altezza mi permette appunto di vedere quella zona, perché lui è più basso, quindi lo vedo dall'alto e lo sento. Se si mette all'angolo sopra dove c'è lì la fuori dai palazzi di Vianulvi, un po' più in alto, arriva molto molto forte, arriva benissimo, un bel portatile quello, capito? Abbiamo già fatto le prove. Io già con quel portatile lo sentivo da Porto Torres come usciva a lavorare, che chiamava, abbiamo iniziato noi qua nel canale 10, io e lui, forse è entrato qualche d'un altro. Capito, perché siamo sempre qua nel 10, abbiamo iniziato io e Gianni, non c'era più nessuno a Sassi, siamo riusciti a resumare un po' di gente. Vero, e la prima antenna sulla macchina, dopo che avevano chiuso tutti, l'ho messa io. Ma non è che interessante che si sia popolato. Cosa ti stavo dicendo, Gianni, lo profeta, lo sai che quando tu sei andato al tabacchino abbiamo parlato con la Griccia? Caspita, vabbè, meglio così, dai. Com'era? Arrivava forte oppure basso? Oh, diciamo che era una via di mezzo, dai. Però non era fissa la propagazione, ogni tanto spariva, si abbassava, eccetera. Ma comunque ne abbiamo parlato sia io che Claudio. Bene, bene, bene, sono contento, va. Ogni tanto c'è una scabussa di qualcuno, ragazzi. Io, vabbè, te l'ho spiegato, ci sentono parlare e quindi entrano, capito? Ma sono 20 watt. 20 watt con 430. Devo farlo, che l'ho messo, c'è un micchino e mezzo, l'ho messo a 2, ragazzi, ma ci vediamo già sul cat, c'è tanto buon pacca radio. Allucinante. Va bene, va bene. Ma intanto dobbiamo far girare anche questa. Capo e Bonieri, è entrato, sì. Che l'avevi giusto giusto, ok? Di capo, mi stavi guardando qua. Ti ho visto salendo le scale. Hai visto, meno male, hai visto in tempo. Va bene, va bene. Io invece devo procurare una scala tipo quella da ponteggio qua. No, invece c'era carboni. Quelle, quelle che si agganciano ai ponteggi. Tipo quelle, io serve per il soppalco. E c'ho quella scala a forbice allungabile, ma a capo ogni volta è un casino, ma sposta, fai, di sua smonta. Io su in terrazzo, verso le antenne, ho fatto lavoro con quella, però quella c'ha gli agganci per agganciare i tubi del ponteggio. Allora io lì, da Pilo, no? Da Vigilino, via Rezzetto, gli ho fatto fare praticamente due U, no? Agganciate più larghe, e in pratica è agganciata al cornicione e arriva sino a terra, perché per salire sopra, no, quando io sono sul tetto in piano, poi c'è il petto praticamente della mansarda, e quindi per salire sopra il tetto della mansarda io ho messo quella scala che è sempre fissa, me l'ho fatta zingare, infatti è sempre nuova. L'ho fatta zingare ed è sempre agganciata lì, e io salgo sopra l'altro tetto della, dove praticamente opero con le antenne, capito? Ecco, vado ad avanzare. Anzi, avanti. Sì, trasmettiamo dalla Sardegna, buonasera, la stazione doppio rum della città di Sassari, avanti. Fa Fabio, dai, mi puoi dare un rapportino, poi ti passerò gli altri amici. Ok, sta una radio 5 perfetta. Abagaba, avanti Claudio. Non so a me se mi ascolta Catanzaro, buonasera, ben ascoltato. Radio Sparviero della città di Sassari, mio nome è Claudio, avanti, mi ascolti. Alfa Claudio, mi arrivi bene. Santiago 5, Radio 5 per te. Scappa, molto bene, sì, io sto andando con un 440 la chiamo, la potenza è 20 watt. Ti mando avanti Daniele, vediamo un po' se senti anche a lui, e poi Daniele vai per Gianni, un profetta, vediamo se arriva a Catanzaro. Scappa, buonasera Fabio, ben sentito, Daniele da questa parte che ti cordializza. Cordialità, vai Gianni, tu profetta. K, sono qua sul terrazzo con Milan 38. Gianni, cosa ti è successo? Sei calato a Santiago 5. Capa Roger, sono con il portante, sono con Milan 38, sono senza parole portante di terrazzo, mi copiate? Santiago 7, Radio 5. Che c'è Catanzaro, vedi se ti ascolta. Dai, provo anche io. Catanzaro, se mi ascolti, con la buonasera, fino a muscolo, da questa parte. Avanti Catanzaro. Ok, Santiago 5, Radio 5 per te. Grazie, altrettanto a te. Quanti volte stai usando questi col mio segnale? Con il Midran Alan 48 sono, eccomi. E con il coso agganciato però? Con 747. Vabbè, io sono con 20 watt e quindi si è arrivato Santiago 5 uguale a me, vabbè. Poi secondo è Gianni, Santiago 3, terzo è Santiago 2. Manca Gianni, l'altro Gianni, vabbè. Ok, vediamo un pochino. Oh Fabio, ci sei ancora? Aspetta che ti tolgo la soddisfazione, eh? Catanzaro, ci sei ancora? Come mi ascolti con questa? Guarda, adesso mi sei arrivato un 5-6 Radio 5. Anch'io sto usando un 440. Vedi, cambia la musica. Va bene. Dai, prendo l'altro che mi è più comodo. Perché te l'hai messo in alto. Va bene, va bene. No, arrivi bene Fabio, Santiago 7-8 fai qua, però io sono molto alto come zona. Radio 5 è perfetta, non ci sono problemi. Vediamo un po', c'era un altro amico. Gianni, sei sceso? Sono ancora qua in terrazza, sto scendo. Comunque anche col portatile ogni tanto riesco a sentirlo Fabio, Buonasera. Va bene, dai, scendi dal tetto allora. Ciao Giulio, buonasera. Avanti. Ciao qua. Ciao Claudio, Gianni, Pino, Gianni Brezzetta e poi se c'è altro, non ho sentito nessun altro. Buona serata a tutti. Avanti che ancora Claudio. Ciao Giulio. Via. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Sì, c'è anche Daniele. Qui c'è Massimiliano, non so dove sia andato a finire, dove stava facendo cosa. Poi, vediamo un po'. Avanti Daniele per Giulio. Salutoni Giulio, ben sentito, dai. Campa di Rosmetro. No, ho sentito il rapporto di Catanzaro io quando mi stavo arrivando. Segnale 2. KK, va bene, di lusso. Ciao Giulio, scusa, non ti ho salutato, ciao. Ciao Tio, ciao Daniele, c'è anche Catanzaro? Non ho ancora sentito. Ciao Giulio, dai, ciao Giulio, io sono rientrato, Eccomi. Ciao Massimiliano, ciao. Ho chiesto, c'è anche Catanzaro, così avete detto, io non ho ancora ascoltato. Sì, c'è Catanzaro Giulio. Ah ok, ciao già. Vabbè. Attenta a Catanzaro, mi ascolti? Deve essere sparito, sceso la propagazione sicuramente. No, scusate, dai, mi devo spostare, rimango con Rix, se già sono in ascolto. Ciao, sono qua. Ciao, Ticcio. Santiago 7, ciao Tino. No, a me mi arriva, sì, 7, 8, adesso. Sì, segnale stabile anche qua, 6, 7, 8. Vabbè, vabbè. Avanti Massimiliano, sei rientrato, la riprendi e fai girare, vai. Sì, sì, e io cosa faccio girare? Mia va. Spengo e provo, cioè spengo, adesso provo a sistemarmi questo rumore, guarda. Radio veramente di cose in terra, perché io leggero ma lo sento sempre. Sì, ma è impercepibile adesso, mentre prima era un po' più forte, capito? Non riesco a capire, nei canali alti non me lo fa, qua me lo fa. Abbiamo già le radio modificate, ne ha tanto di biliarumari. Va bene, controllo allora, dai. Avanti Gianni il profetta per Giulio, vai. Ciao Giulio, buonasera e ben entrato. Sì, sono ritornato con l'apparato fisso, adesso volevo provare su internato col portatile per vedere se era tutto perfetto e se funzionava bene, dai. Comunque, arrivo una sera, non so se Fabio da Catanzaro è ancora in ascolto, comunque saluto anche te da Gianni, qua sempre dal nord Sardegna. No, è scaduta la propagazione già. Andavè. Doppio rumo, mi sentivi col portatile? Ah, certo che ti sentivo. Con l'antenina sua, sì, ti sentivo. Com'era? Andava bene? A volte in basso e a volte ti sentivo bene. Sì, perché stavo cercando la posizione ottimale lì sul tetto, vabbè. Comunque, giusto per... così a livello di aglioglio, niente di che. Comunque, dai, avanti Giulio, buonasera ancora. Ok Gianni, ciao. Sì, ti sentivo anch'io, passo ma ti sentivo anch'io, comportatevi. Vabbè, dai. Stavo prendendo la scatola del computer, ultimo, ero stato i giorni senza accenderlo, adesso lo parte, boh, non lo so. Il computer di base, allora mi devo una chiesa, un video di chiccio. Porca miseria, ragazzi. Vabbè, colpa mia, perché ero un mesetto senza accenderlo, e dunque chissà cosa maledizione gli ha preso. Non lo so, adesso l'ho lasciato così, acceso, ma non parte però, è inutile che... Vediamo un po' che cosa, se si riprende, non lo so. Ma non è per quello Giulio, io ho lasciato tanto tempo senza accedere, poi l'accende e funziona, non è quello lì. E cosa può essere? Perché io quando l'ho lasciato funzionava benissimo. Adesso quando mi accendono, dopo un mesetto non ho più, e non riparte più. Sì, accendono, non parte. Tante cose possono essere. Magari sta facendo degli aggiornamenti, non lo so, cosa ti scrive a te? Cosa mi scrive? Da foto mi scrive, fatta, niente di particolare. La pagina iniziale, però sotto c'è scritto da foto e non... E non importa questo, che non esce nemmeno. Con la pagina lì appare, poi non riesco a andare a toglierla, che puoi immaginare. Tu rispetto bene l'ultima volta. Avete parlato in due, sì, certo, usciva benissimo, era perfetto, e adesso non parte, e che ne so, sto portando al dottore, così almeno si diventa a posto. Giulio, tu magari sei più vicino e riesci ad ascoltarmi meglio. Volevo capire se ti lascio adesso la portante fissa, se c'è qualche rumorino sotto, eh? No, non c'è niente, Massimiliano. Giulio. Non c'è niente adesso, Massimiliano, non c'è niente. Va bene. Ok, la radio è buona? Sì, buona. Da me qui è buonissimo. La voglia, alla grande. Va bene, Claudio, tu lo senti ancora quel rumore? Vedi un po'? Prova a modulare un po', perché io lo sentivo leggero. No, negativo. Ok, grazie. Che cosa è, Massimiliano? La ventola? No, secondo me è un problemino di questo S9. Perché quando io gli aggancio il Top Gun, questo Top Gun ti fa la modulazione un pochino più robusta. E quando aggancio quello fa questo rumore, guarda, te lo faccio in diretta, guarda. Lì, senti? Vedi, sgancio quello e non c'è più rumore. Sì, adesso l'ho sentito, quando l'ho agganciato, l'ho sentito, sì, quello sì. Invece quello non lo vuole adattare, ma sei sicuro che non lo vuole adattare? Vedi? Che microfono stai usando con quell'apparato? Un Midland classico suo, tipo CT, dai. Quindi non è amplificato, perché poteva essere anche dal fattore che magari usando un microfono amplificato, come li metti il Top Gun, si fa quel rumore. No, il mio non lo fa, boh. Il mio è sempre inserito il Top Gun. Vabbè, questa è un po' più elaborata della tua. Capito, già lo sai, no? No, però prima non me lo faceva, però a momenti lo fa, a momenti non lo fa. Non vorrei che sia qualche rientro di RF quello invece. Quindi lo sto tenendo io sotto strumento, collegato sempre per vedere stazionarie, sono 1.1. Un watt e mezzo, due, là, di portante, intorno a una trentina modulati. Quando stavo per fare questo mezzo, non che ti crea quel rumore, ma si vede. Cosa, giù? Ho detto, ma stavo per fare lo strumento che hai inserito, che ti crea proprio quel rumore. Lo strumento? No, no, no, no. Ok, vabbè, non lo so. Non lo so, non so cosa dirti, ma si vede. Sì, perché quando era cantato ti avevo sentito, è a voglia. Mentre invece prima no, era silenziosissimo, per cui andava benissimo. E vabbè, dai. Non già lo trovi il motivo per cui ti fa quel rumorino lì. Facciamo girare. Vado, bracchetta. Eia, dai, mi assento io da baracchino e entro nei collegamenti, dai, ecco perché. No, vabbè, sto scherzando. È una coincidenza. Va bene, dai. Quindi abbiamo qualche altro referto dalla 131, Daniele. Com'è la situazione? Aggiornaci. Ah, boh, io ho visto un video, però ho visto una cartina meteo e sta arrivando l'acqua, come si dice. Sì, a me Maciogga. Domani sta la Ciogga lì, a Fannapoli, a Isetta. Sì, ho il meteo radar che cioè, sta arrivando pioggia. Già, vagava, alle 9 l'ha messa qua. Adesso ce l'ho anch'io, adesso guardo la stazione meteo in tempo reale, aspetta che cosa mi dice. Guarda da Cagliari, tutta la parte di Olbia, a salire, tutto acqua, pioggia. Ma qui c'è una bella abbondante l'acqua qua in Sardegna, soprattutto qui a nord. Capita. Tu dici le lumache, no, me la devo comprare di luce, me la devo comprare di lumaconi però, non le lumache, i lumaconi. Belle, grosse, brutte di luce. Cocco è ripieno. Domani me le faccio preparare, perché l'ho comprata stamattina. Domani mia moglie mi dice, va bene, e poi mi dice di fare il ripieno. Fate le mettiate in un boccaletto. Io regolo anche la radio che stai scendendo tutto impattato. Aspetta, recuperiamo. Oh, yeah. Ancora, già. Ancora va bene adesso. Questo è perfetto. Oh, ragazzi, riprendo io, dai, che devo andare alle mie suoci. Ci sentiamo domani se coincide, dai. Ok, d'accordo, allora dai, ci sentiamo prossimamente. Sì, Gianni, perché non vuole mai spolverata la radio, se no si muovono i potenziometri queste qua. Vabbè, Claudio, ci sei, sì? Sì, ero un telefono, nel frattempo voi stavate parlando. Va bene. Ehi, le radio. Andiamo da CVM e bigliamo maladia, fortunatamente la 48 c'ho io, sta ancora funzionando bene, era un bel po' di tempo dentro l'armadio, però sono baracchini abbastanza semplici, ma quando inizi a lasciare queste ferme, io adesso sto andando con 430 perché era da tanto che non lo usavo e ogni tanto mi faceva un difettuccio, praticamente si spegneva, evidentemente era basso di alimentazione, se l'ho fatto l'alimentazione a quasi 14, era sempre a 13, 13,2, l'ho messa a 13,9, quasi 14, non c'è più il telado, vabbè, doveva essere quello, cosa ne so io, va bene, ed è anche bello caldo, sì, bello ordinato, sta funzionando bene, va bene, a chi tocca, ciao Daniele, buona serata, buon tutto, Massimiliano, riprendi. Sì, dai, saluto a Daniele e lo aggiorno che dalle 8 di stasera fino domani alle 10 di notte ha dato acqua, tutta senza interrompersi, capito, acqua a manetta, domani un bel. Infatti è arrivato, io stavo guardando, è uscito le sezioni, è arrivato alle sezioni di competenza l'allerta meteo, cioè allucinanti ragazzi, siamo a maggio, cazzo, boh, roba da matti. Allerta meteo a maggio. E poi ve ne farà il miravare, cazzo. Sì, ma infatti adesso mi preparo lo scendo a Filippo. Perché è già nuvoloso, c'è vento di becio, quindi sicuramente sta portando acqua a Gugu. Quindi io per il momento vi saluto, se vi trattenete sentiamo dopo, io mi preparo e me ne scendo una mezz'oretta col cane, dai. Ok, a dopo, avanti Rubrofè. Che io vado là. Ma l'ha messa la stanotte alle 10 però non la va. Massimiliano, c'è vento di becio e nelle zone alte, cazzo, sembra sempre fatta apposta, quando è vento di becio qua, addirittura come sta fa Eva. E poi Filippo poi non fa handicappato quando piove, non cammina, capito? Che portarlo lo fare asciutto. Sì, ma è troppo presto però, lascialo un altro mezz'oretta. Se no poi la canna domani a mangiare, poveraccio. Sì, vabbè, già regista, è un cane che a volte lo porto per fuori, a volte alle 7:30, a volte alle 8. Anzi, meglio, così domani è domenica e io tanto me la faccio presto anche la domenica, se no lui prima alle 9:30 non esce. Oggi lo porto prima anche domani mattina. Vediamo. Cava cava, vai dite voi. Per me è presto ancora, se poi non lo deve più far uscire, so per la risetti. E se so che la domanda mandare le nuove, non piscia più, provaraccio. No, ma in effetti è presto, se non piove, io ho capito che dalle 8 che pioveva, se no non ho preso. No, già, io il mio meteo ce l'ho in tempo reale. Quindi l'ha messa dalle 10 di stanotte fissa fino a domani tutto il giorno e lunedì anche mi ha messo. Va bene, già va bene. Beh, finché non sta piovendo vi conviene trattenervi un pochino, e se poi vedi che poi il cielo già si vede quando inizia quasi a piovere, là, poveraccio. La signora deve pure rugattetta la rugata. Poveracci, già che siamo condizionati dagli orari che ridiamo noi. Invece il tuo va in campagna, scende giù così. Ma il mio è dentro casa già, il mio io lo porto, ogni tanto le apro la porta quando vedo che ha voglia di fare la pipì, si mette vicino alla porta, quindi apro la porta, fa la pipì e rientra. Se poi invece non ce la fa più, c'ha una sabbietta a parte, tipo quella dei gatti, e se ne entra nella sabbietta la fa nella sabbietta. Beh certo che trattenere l'animale sia domani mattina, caspita, è un po' lungo, un po' troppe ore sono. Vabbè, sarà abituato così, però in effetti è esagerato tenendo troppe ore così. Perché no, pensavo che pure durante la notte, prima di andare a letto, ad esempio, lo portavate di nuovo il cane fuori. Io pensavo che voi facevate così, o Gianni e Claudio. Invece no, mi state dicendo che lo portate verso quest'ora, le 8, dai, e poi fino a domani mattina. Capita, hanno una resistenza fenomenale allora questi animali, veramente. Ecco come si fa. Tu immagina che un uomo adesso, capita, pure lo dovrebbe fare domani mattina alle 9:30, capita, la parola, come fai? Lui, va bene, dai. E tu ce l'hai il cane o già lo prefetta? No, negativo, no, qua a casa c'è solo un gatto, un maschietto. Maschietto, problemi, non esistono questi problemi qua. Ok, no, nemmeno io. Sono io nemmeno gatto, niente, nessun animale qua. Qua niente, non mi sono mai voluto prendere quell'impegno. Premesso che mi piacciono, sia ben chiaro. Però non mi sono mai voluto prendere quell'impegno. Sì, perché alle volte puoi e non puoi a vincere all'impegno, eccetera. Invece quando lo ce l'hai sai che non devi mantenere il tuo impegno. Va bene, va bene. Avanti qua. Io che ve lo trovo. Un attimo. Vi devo salutare che è arrivata gente, dai, ci sentiamo più tardi. Ehi, ciao già, a più tardi, ciao. Ciao. Ok già, ciao, a domani allora, dai, se coincide. Alle prossime. Attende pure. Bene, bene. Avanti già di numero fetta. Ciao doppio room, chi è? Luca? Chi era quello? Ciao Luca, credo che sia Luca, sono in ruota con Giulio e con Massimiliano. Ciao Lu, ciao, io già ti sento. Ciao Luca, se mi ascolti, ma io ti sento malissimo, come se tu fossi del canale adiacente. Sei carico di stazionari, ha capito Giulio. Ciao, quell'antenna, quella Storm, come ti cazzo di già, scusate, come si chiama, quella lì. E ce l'ha agganciata con una fascetta, una ringhiera, però non riesce a cordare. Lo credo che non riesce a cordare, perché quella è un'antenna di marca, non è un'antenna da stazione fissa. Tanta gente l'ha utilizzata anche a casa, ma non va bene. Quella è un'antenna che ha bisogno del piano strettente del mare, quella è per la barca, non è per casa. Non ci riuscirà mai ad accordarla, come si dice. Oh, yeah. bisogna essere troppo fortunati per riuscire a raccontarla con quella, ma non si riuscirà mai. A parte il fatto che non rende quella rete, è uno di cumulo. Va bene, va bene. Luca, fatene una, come state guardando la volta scorsa. Non costa niente, capita, costa tre parate, costa. E poi è anche leggerissima, la puoi mettere nella stessa posizione dove c'è quella. E così almeno sai che sia anche molto bene. Va bene, va bene. Avanti, Luca, fede. E quanto ci vuole il denaro, Giulio, a farla una così? Da 35 euro più o meno, perché sono 16 euro circa, 15,90 per l'esattezza, nella canna da pesca, lunga 7 metri, premesso che poi la punta grande bisogna deve mettere un altro pezzo, perché il filo dentro non c'è passa, a meno che non decidi di mettere esternamente il filo. E dunque ci vogliono 8 metri di RG 58 oppure H155, ci vogliono, compreso la bobina e tutto, la bobina più i 3,50 più o meno al centro, poi dal centro dall'antenna anche 3,50 di filo unipolare, anche da un millimetro e mezzo va bene, se lo metti a 2,5 ancora meglio, se lo metti a 3 ancora meglio, e dunque tutto lì. E poi ci vuole 56 cm di RG 213, oppure puoi utilizzare sempre lo stesso cavo, non cambia niente, o meglio cambia in potenza, perché anziché caricarla, ma l'antenna non la devi caricare più di tanto, anziché sopportare, che so io, 1000 watt, se ne sopporterà 500, per dire, no? È un altro pezzo da 9 cm, come condensatore che va in alto, va. Al massimo 35 euro di spesa. Io non ci sono buono a farla, se no me l'avrei fatta, mi serve un'altra antenna. Ma stavo valutando se farmela o se prendere un'altra Mantova. Ci ho trovato una Turbo a 50 euro, usata però. Beh, quello lo devi decidere tu. Se si fa, io l'ho fatta più che altro per il gusto di farla. E ho visto che funziona bene, l'ho sempre lasciata e sono già roba di un anno e mezzo. Messa addirittura l'interrattino, senza averla mai messa al posto della Mantova Turbo. Premesso che la Mantova Turbo l'avevo portata giù, perché mi dava fastidio quando c'era vento, che fischiavano durante la notte e mi dava fastidio quello, perché i radiali fischiavano in una maniera impressionante. Allora, adesso voglio provare a fare questa. Come ho provato, al primo colpo è andata bene. E lo stesso discorso ce l'ha fatto anche Franco di Sassari, del Monte Pazzo. E va bene lo stesso, anche lui ce l'ha fatto. Ma capire, computer o Massimiliano, chiunque la può fare. Non ce ne sono persone che non la possono fare. Perché basta aprire il computer, tu scrivi, Game Master, devi scrivere costruzione Game Master spiegazione sulla tastiera, clicchi e vedrai che ti appare tutto quello che ti serve, tutte le informazioni che ti servono, e non è per niente difficile, guarda. E poi ci guardo, a vedere. Poi guarda, perché alla fine per spendere 35, spendere 50, avere un avanto va meglio secondo me, però è anche, tu mi dirai, anche il gusto di farla, gappa. Ma tu non ce l'avevi una turba, mi pare, o no? Sto sbagliando io. Sì, ce l'ho sempre, però l'ho smontata. L'ho tutta quanta smontata, è roba nuova, ma si può immaginare. Lo stile centrale è collicato per terra nel fogliolo. Io ho un fogliolo da un lato 8,50 e dall'altro lato altre 8,50. E l'antenna è intorno ai 7 metri circa, 6,90 per l'esattezza. E l'ho sdraiata per terra così, non ho nemmeno smontato lo stile centrale. Tutto il resto invece ce l'ho dentro casa, smontate tutte le radiali, nuovi, luci. Anche il piattello, quel piattello che generalmente dicono che si arricchisce, è lucido anche quello, sì, che si può immaginare. Però ce l'ho, non tanto per quel motivo, Massimiliano, perché fischiava la notte, l'inverno, fischiava, ragazzi, mi dava fastidio quando alle 2 alle 3 del mattino si sentivo questo fischio quando c'era vento forte, naturalmente. Però l'antenna è ottima, veramente. L'unico problema che mi creava è che delle volte non era controcircuitata, allora però la ripristinavo e andava bene. Però l'antenna funzionava bene lo stesso, anche se non era controcircuitata, perché è nata controcircuitata. Ma quel contatto evidentemente si oscillava e allora perdeva il fatto di essere controcircuitata. Però l'antenna funzionava alla grande, era una grandissima anzi, veramente. Ma te l'hai messo a posto comunque, l'hai aperto e si è risolto quel problema. Sì, sì, certo, all'interno c'è una bobina con un filo di ammollimento che è dentro il motecone del tubo di resina, che è quello praticamente che sostiene tutto il palo centrale, no? Tutto lo filo centrale. Era lì, e siccome era piuttosto in una maniera un po' bizzarra questo contatto, che tra lo stilo centrale, questa bobina e la parte di massa, cosa succede? Che a forza di muovere, oppure si ustina, perché magari entra che sono io anche umidità, questo non so dire, e fatto sta che non fa più contatto sulla massa, non facendo contatto sulla massa non è più controcircuitata. Però la tenda funziona alla grande, ma io l'ho rimessa a posto, l'ho ripristinata, però adesso non sono montata proprio per il fatto che ci ho detto, solo per questione di vibrazione, perché perché i radiali sono lunghi 1,50 m, 1,60 m, una cosa del genere, e ce ne sono 8, e sono da 10 mm di diametro, però sono tubolari, non sono pieni i radiali, e vanno benissimo, lucidi, veramente, tutta veramente, nuova, anche adesso che lo stilo centrale è buttato sul terrazzo, su una strada, dalla parte alta della casa, perché io ho terrazzo sopra e sotto, no? E dunque, di tanto in tanto quando mi affaccio al terrazzo, la guardo ed è sempre lucido, anche lo stile centrale, non c'è un minimo di lucido, proprio perfetta. Beh, allora per tenerla così come te la vendi, tanto c'è quella lì, se sei performante con quella, che sia la grande, tanto cosa ne fai? Dove due antenne? Lo so, faccio vedere, ma mi dispiace venderla, perché anche se non la uso così mi piace averla, è tutto niente di particolare. Tu pensa che io tanto tempo fa avevo la Game Master originale. Beh, un giorno è venuto un mio nipote che abita a Carbonia, che anche lui al baracchino, infatti gli ho regalato tante cose, gli ho regalato l'antenna Game Master originale. L'ha preso al mazzo un giorno, così al volo, e glielo ho regalato, e dice te la fai così, guarda questa, guarda questa, questa mi sia, cosa mi fai, vai 18 anni, vai, stai andando a scuola, allora vado di studi, vai, portatela via, e glielo là. E poi invece a me mi è saltato in mente di farmela, ho preso, me l'ho costruita, ma va bene lo stesso, no, problemi non ce ne sono, fatti vedere. Però addirittura abbiamo avuto la Game Master originale, pensa un po'. Gappa, va bene, ciò riprenderà Gianni, no? Gianni? Eccomi qua, sì, ho acceso il computer per vedere di aggiornarmi sul meteo. Vabbè, non è che sono così preoccupato, però giusto per impegnare un po' il tempo. Comunque l'antenna l'ho cambiata stamattina e quindi sono cappuccio. Giulia, a proposito, ho rimesso la boomerang e ho regolato appena un po' di watt in più. Tu noti qualcosa sia in positivo che in negativo? Sì, mi sembra 1 o 2 punti S in più, 9 più 8 comunque. Prima quant'era? 9 più 5 mi sembra che era. Adesso è 9 più 8. Va bene, grazie. Ok. Sì, è l'ulteriore conferma che non c'è paragone tra la boomerang grande e la Ringo, questa lì dà proprio, gli fa 10 a 0. È ovvio, Gianni, ci mancherebbe, che assista. Meno male la Ringo è ancora circostante, no? Quanto è lunga? Vediamo un po', se è lunga intorno a 7 metri vuol dire che è circostante, se è lunga 5 metri e 50 allora vuol dire che è mezz'onda. Allora, questa boomerang è lunga 3 metri e 10, la Ringo, completamente estesa, chiaramente con tutti i componenti di stilo fuori, lunga 5,16 m, però chiaramente gli stili, gli stilo vanno infilati uno dentro l'altro, di 10 cm e la lunghezza totale risulta 4,86 m. Ok, ho capito. E allora è presa la mano, dai, pesa, non è circostabile allora, perché circostabile dovrebbe arrivare a circa 7 metri, 6,90 una cosa così, 6,80, 6,90, per cui siamo lì. Mezza lampada, mezza onda. Va bene, va bene. Sì, sì, adesso mi sono... l'ho smontato, cioè l'ho sistemato poco fa, così domani mattina viene Daniele e se l'ha portato uomo. Ma che altro la costruisci tu già? Tipo quella che ci ha fatto Giulio. Già la vorrei fare. Già la vorrei fare, Massimiliano. Adesso magari come dopo questa acquazione magari faccio una scappata a Decato e mi prendo il materiale, me lo faccio in terrazzo che c'è spazio. E magari sì, voglio provare a sperimentare quella, dai. Con 35 euro, cosa vuoi sia? Poi se in caso ti serve la mano, già c'è Giulio, lo chiami, ti dà le informazioni che ti servono. No, già sono, ho tutto quello che mi serve, anche comprese le informazioni che mi ha dato Giulio, ho scaricato un po' di materiale da internet insieme a quello che mi ha dato Giulio, quindi io, a parte due o tre video interessanti che ho trovato, per cui ho tutto quello che serve dal punto di vista delle caratteristiche tecniche. Sì, anche perché ce ne sono diverse di cose, di tipi di costruzione, non solamente quella che ti ho mandato, ce ne sono diverse, per cui uno può scegliere quella che vuole e vanno tutti bene. Io ripeto, la prima volta a Franco nel giro di un paio di giorni se l'ha costruita, tu pensa a Massimiliano, sai dove ce l'ha Franco? In facciata, attaccata alla staffa del filo da stendere, e lui non abita sul tuo piano, abita anche sotto sopra la luce c'è tutta un altro appartamento, e lei aderente al muro quasi, cosa sarà? Sarà se no 40-50 cm dal muro, eppure esce bene, altro che se esce bene. Qui mi arriva 9,5 mi arriva, considerando che poi è chiusa dal palazzo l'antenna, che vedi bene, Massimiliano. Vanno bene, altro che, poi è leggerissima, cosa è, poi costa pochissimo, dai. Tu pensa che l'originale costa roba di 160 euro, costa originale, la Game Master originale. Quella è questa benzina esagerata, secondo me è esagerata, però purtroppo la Sirio se la fa pagare così. Anzi, ci sono certi siti, anche di più costa, 170, 180, ne ho visto, per cui vede bene. Oltre a 35 euro, poi, se non è l'originale, ragazzi, una fusi. Io per camuffarla, per farla diventare 5 dall'originale, lo sai cosa ho fatto, Massimiliano? Da una bobina ho comprato un rosso, di una sola lampada rosso, e la bobina, siccome è nera, no? Perché è la che 155, ho preso e ci ho messo una sola lampada rosso, e adesso la guardia, la fusi, anche il matte originale, perché è rossa la bobina della Game Master originale. Sì, ma l'altro giorno mi stava dicendo Sandro ce l'aveva, mi ha chiamato Sandro, stavo chiacchierando così, e mi ha detto che te l'ha data a te una, lui ce l'aveva, la Game Master, l'aveva comprato, mi sembrava pagato intorno a 160 o qualcosa del genere, e mi l'ho data a Giulio, infatti ho detto boh, non ha detto mai niente che c'era la Game Master, infatti ho detto boh, strano. E io l'ho data a mia nipote, infatti l'errore che sta dicendo poc'anzi, l'errore mio è stato quello, io l'ho data a mia nipote, l'ho pigliato a basso il giorno, si vede che il giorno mi ha preso proprio veramente di buon umore, cosa mi so, quanto sai gliel'ho data, anzi gliel'ho data anche un microfono, gliel'ho data anche un baracchino, tutto quel giorno, capita, va bene. Ancora precedentemente gli avevo dato anche un altro baracchino, gli avevo dato, e un portatile pure gli avevo dato, comunque mio nipote, un ragazzo di 18 anni, che è una brava persona, sta studiando, almeno quello se non ha trovato, però se vengo a sapere che non studi, vengo a casa tua e ti prendo tutto, no, già studio lì, e allora ti dico vai, e glielo lascio, e vabbè, comunque, non è che mi sono pentito, e siamo in chiaro, però se lo lascio è basta, non è che mi devo pentire per quello, ma ragazzi, se la voce originale me la comparecchio, che problemi ci sono? Certo, vabbè. Stavo dicendo, zio, invece tu la connessione KMB più 5 più 4, roba così, la sai fare, sì? Io mi sono sempre fatto gli strettoni, mi sono fatto, mi sono sempre fatto gli strettoni, per cui, ormai sto usando sempre il K, sto usando, e poi tra l'altro l'ho fatto anche per il K, è lo strettone. Anzi, addirittura quello è lo strettone lunghissimo, perché avevo comprato del filo con 8 contatti, no? E come nel K ci sono 8 contatti, con lo spinotto, 8 contatti, eccetera. Naturalmente non si utilizzano niente. E avevo fatto l'adattamento del MP4, l'avevo fatto. E col capo lì non l'ho voluto tagliare, premesso che era lungo più o meno 2 o 3 metri, li avevo comprato e li avevo fatto tanti sessioni per i vari malachini, no? Perché non tutti riuscivo a utilizzare il microfono con lo spinotto originale a tutti i malachini. Allora dove non funzionava mi facevo lo sessione, mi facevo, e ne ho una decina di questi sessioni. Che poi chissà se li userò mai, però li ho fatti, tanto il tempo non mi manca e mi sono divertito là in quei momenti. No, io lo devo fare uno spezzoncino così mi serve dal K a usare un più 5 là. Però stamattina sono andato a fusare, ho preso i due connettori, quello il maschio, quello da pannello, diciamo, là, e poi il connettore da entrare nella radio. Ok, no, io facevo così, no, anziché stare lì a smontare lo spinotto originale del microfono, quello non lo smontavo, ma non l'ho mai smontato. Facevo così, compravo per dire, guardavo un baracchino, quanto è a 5 punte, tanto per fare un esempio, ecco, compravo lo spinotto a 5 punte e ci saldavo 5 fili, ci saldavo, no? Saldate questi 5 fili, dall'altro capo dei fili, non ci mettevo nessun spinotto, dentro lo spinotto del baracchino, del microfono, ci infilavo i fili così, sperati, no? Ci infilavo dentro e provavo, una volta che trovavo la portante, poi era facile trovare anche la radio, così non stavo lì a modificare lo spinotto del baracchino, del microfono, che non è il caso, e così si fa anche molto in fretta a trovare il collegamento, Massimiliano. Sì, no, infatti l'ho comprato nuovo, capito, me lo fanno spezzone, capito, tutto qua, ma io non vedo come la fa lì, dal K, cosa non vedo come, non mi sono mai messo, Lì devi, io non so se riesco a trovarti lo schema, perché vado a fare anche lo schema, se lo trovo, se lo posso mandare, però non ti prometto niente, perché non so se ce l'ho ancora, ma lo dovrei avere, ma al limite ce lo dovrebbe avere Antonello, lo schema, giusto, ma io l'avevo tolto con testa, avevo controllato dove c'era la corrente, perché c'è un polo dove c'è la corrente, che ci sono gli 8 volt, devi stare attento a quello, non cortocircuitarlo da nessuna parte, quello devi proprio eliminare come collegamento di un microfono, ad esempio del MB5 o del MB4 eccetera, quello non devi proprio assolutamente eliminare, è tutto come se non ci fosse quello lì nel K, devi stare attento a quello, perché se fai cortocircuito con quello è capace che ti bruci la radio, Massimiliano. Ma io già non li voce, infatti, lo faccio fare a chi lo sa fare. Ciao ragazzi, avanti Gianni, lo profetto. Ehi, adesso Massimiliano, visto che Franco me l'aveva mandata, ti faccio vedere praticamente la sua antenna e le condizioni. direzione in cui è messa. Adesso se riesco a trovare la foto te la mando. Ma io lo so dove è messa, che so dove abita Franco, e ci sono passato anche da poco davanti, lo so dove ce l'ha. Va bene. Ce l'ha attaccata al coso del fender, come dice Giulio, spostata dal muro, forse non ci sono neanche 50 centimetri. Appunto, e quello è anche un handicap per l'antenna, per la radiofrequenza, non per l'antenna, per la radiofrequenza, perché è troppo vicino al muro, per cui, insomma, potrebbe, eppure, nonostante tutto, qui la merda va numero 5. So che ha anche fatto dei DX, so che ha fatto anche dei DX, guarda, anche ieri stavamo ascoltando la preparazione, stavamo ascoltando io e Franco, e eravamo in un canale un po' in alto, e stavamo ascoltando la preparazione, eppure si sentiva bene lo stesso, non c'era problema. Sì, ma è così, guarda che sono fatto un paio d'ore, Franco, lo stesso, come ho fatto io più o meno. Gli ho detto, fra, così e così, ma davvero, sì. E poi gli ho mandato qualche fotografia su WhatsApp, gli ho mandato, e gli ho dato un input alla cosa, scrivi, gli ho detto, mi scrivi costruzione Game Master, spiegazione. Ecco, lui ha aperto il computer, ha scritto così, e subito gli ha passato tutto quello che le serviva, tutte le indicazioni che le servivano, Massimiliano. E dunque l'ha fatta, sta funzionando, e adesso ce l'ha da un bel po', parecchi mesi ce l'ha adesso Franco, Sì, lo so, io mi devo assentare un secondo, riprendete voi, riprendo fra un po'. Ok, d'accordo Massimiliano, dopo lo... Avanti Gianni, lo prefetto, anche tu se hai voglia di fartela più o meno, così almeno per divertimento, premesso che quella che hai già va bene, però se ti crea problemi di stazionario quando piove, quella là non te ne crea di problemi, cioè, poi non fa tu guai, non fa niente, proprio niente, tu pensa che la mia non è nemmeno a 2 metri di distanza dall'antenna TV, e dunque per dirti no, va benissimo, non... oscilla, ecco, quando oscilla molto, quando già ce l'ha, è una canna fresca, chiaramente col vento oscilla moltissimo, però non succede niente, va benissimo, anche se il vento è a 70, 80 km l'ora, 100 km l'ora, si piega molto, però va sempre bene, non si pensa, insomma, l'ho riportata, però io, nel posto dove si collegano gli elementi, ci ho messo un pezzo di tubo da elettricista, di quello rigido, una quarantina di centimetri, e dunque con due collari ed è a posto. E regge abbastanza bene. Vai in ritardo. Sì, giù. Qua, adesso, sinceramente parlando, adesso stamattina ho rimesso la boomerang, ho tolto la ringo, così la restituisco a Daniele. Già il fatto, il cambio dell'antenna mi ha fatto guadagnare anche un po' di potenza. Questo è segno che la ringo mi stava togliendo qualcosa. Infatti con la ringo praticamente lo strumento mi dava 5 watt tondi, ok? Quando ho messo la boomerang, che ho sistemato tutto, praticamente ho messo lo strumento su watt, e praticamente lo strumento messo su watt mi indicava 6, a volte con picchi di 7. Le stazionarie sono 1 e 2 circa, quindi l'antenna questa va molto ma molto meglio rispetto a quella là. Ok, sì, beh certo, ma quella cosa ha lo stilo centrale e un radiale, così è o già? Sì, lo stilo lungo 3,10 m, lo stilo radiale che io ho messo a 45 gradi. Sì, appunto, allora non confonderti, ti spiego subito una cosa. Siccome avendo lo stile centrale a 45 gradi, quella praticamente diventa un'antenna direttiva in una determinata direzione. Può darsi anche che adesso l'ha messa in un punto, in una posizione favorevole verso di me, ed è per quello che magari ha aumentato il segnale. Non ti confondere molto col discorso discorso che gli ho allenato qualcosa, suppongo che sia così, perché quando uno antenna è così la boomerang, avendo un elemento così, diventa direttiva in una determinata direzione, meno dall'altra parte, cioè praticamente davanti e dietro ha un segnale, di fianco, destra e sinistra invece dovrebbe essere differente. Mi sono spiegato, Gianni? Sì, sì, quello lo so giù, sì, mi sono informato bene su quelle sulle caratteristiche di questa antenna. Sì, allora, lo stilo verticale è lungo 3,10 m, lo stilo, il radiale piccolino va orientato a 45 gradi e la posizione del radiale è verso il goffo della ginara. Teniamo presente, come le foto che ti avevo già mandato, l'antenna è libera da ostacoli tutta intorno, quindi a 360 gradi. L'antenna è assolutamente libera a 360 gradi, quindi non ha nessun ostacolo da nessuna parte. Ho privilegiato mettere il radiale verso il goffo della ginara. Ok, dunque, dalla parte che è favorevole per me. Sì, sì, ho capito. Vabbè, dai, comunque, in ogni caso, quando hai voglia te la puoi anche costruire. Così, tanto per la bella, è una soddisfazione, sai, non ti credere, tu mi dirai, ma è tempo d'antenna. Sì, ma è una piccola soddisfazione. Chi è appassionato di radio, così, insomma, costruirsi un'antenna è anche una piccola soddisfazione. Oh, perlomeno questa è la mia idea, poi ognuno lo sa di sé. Dai. Sì, sì, come lo stavo dicendo prima Massimiliano, magari adesso, sperando che il tempo si stabilizzi, come arrivano le belle giornate, è probabile che magari vada, faccia una scappata a prendermi il materiale, tempo permettendo, me ne salgo su in terrazzo che c'è lo spazio, e lavoro direttamente lì piuttosto che lavorare dentro casa, capito? Quindi posso estendere la canna da pesca interamente, la posso aprire tutta e posso fare tutto il resto, perché dentro casa non è fattibile. E quindi adesso magari aspettiamo che la situazione meteo migliori e vediamo un po' con la lunghezza sua esatta quanto riusciamo ad andare più avanti, capito? Ok, sì, beh, certo. Vabbè, comunque, il discorso è sempre quello. Bisogna mettersi per farle certe cose, che proprio uno è interessato, se lo fa, è così, ha anche una piccola soddisfazione personale, che se l'ha costruita con le proprie mani, l'antenna. Lo ripeto, io l'ho fatta proprio così, diciamo, per il puro gusto di costruirla, di farla, vabbè, adesso la faccio, siccome qui nel terrazzo io ho una stampa, dove ci attaccavo il montacarico, che c'è un bottolino che mi portavo su del materiale quando stavo lavorando qua, eccetera, no? E ho usufruito di questo tubo del montacarico, per così dire, montacarico vuol dire, è un montacarico che porta su due quintali, mi sembra che porta su, e va benissimo, è un motorino, non è niente di particolare, è un motorino quello che mi ha dato una grossissima mano quando stavo facendo le lavori, perché da giù mettevo ad esempio, che so io, un sacco di cemento, tanto per dire una, lo mettevo dentro un contenitore che avevo fatto, l'agganciavo e lo portavo su, anche se fa passare per le scale, me lo tiravo su dalla strada fino alla terra, fino al terrazzo, capito? Ed ecco, è usufruito di questo tubo e ci ho messo, ho infilato appunto questo pezzetto di filo di tubo da 1,20 m dove ci ho attaccato questa antenna. E ho visto che funzionava e funziona bene, però la mia intenzione è sempre quella di portarla dove c'era prima la massima tubo, che risulterebbe 6 metri più in alto di dove è adesso. Dunque, essendo 6 metri più in alto, sicuramente avrà una resa maggiore, senza dubbio, non può essere diversamente, o Gianni. Cappa, c'era una portante con un fischio avanti. Qualcuno che vuole entrare, non mi copriva? No, riuscivo a sentirti giù, non riuscivo a coprirti. Niente, ce l'ha portata con un fischio. Avanti, chi vuole entrare qua sul 10? Forse che era qualcuno di propagazione anche. Non lo so, comunque, diverse volte l'ha fatta mentre stavi parlando, quindi non lo so, comunque, già siamo qua. Ah, beh, certo, sì. Che se ne frega, lasciamolo fare, se per caso è qualcuno che vuole fare gli spicci, non se ne frega per niente. Sì, ma è così, appunto, quello che stavo dicendo, se la metto al posto suo, quello originale, che è il posto dove avevo costruito appositamente per l'antenna, quando stavo costruendo la casa, ti posso garantire che funziona molto ma molto meglio, anche perché io posso accedere al tetto in maniera molto ma molto semplice, perché avendo le case adiacenti delle altre case, o delle altre case che ci sono aderenti in aderenza alla mia, cosa succede? Cosa ho fatto? Ci ho fatto sui muri perimetrali, ci ho fatto la passerella, ci ho fatto, dunque ci passo lì sui muri perimetrali, intanto il pericolo c'è, perché c'è la casa che è in aderenza alla mia, che è la stessa altezza, per cui non c'è pericolo di niente. E così non metto piede sulle tegole o gialli. L'avevo fatto di proposito proprio per questo motivo qua. Questo vale sia per l'antenna del palatino che per l'antenna della televisione. Ma avevo fatto la parte detta dei muri per i vetrati. Certo, certo. Bene meda giù, anche adesso portante comunque va, non ti copre, non riesce a coprirti comunque, dai. Va bene, speriamo, se c'è qualche imbecillo che cosa ce ne frega, no? Tanto imbecillo è imbecillo rimane, no? Non è quello il discorso. Per cui, va bene, così è, ho già. E cosa vuoi che ti dica? Non posso cosa dirti adesso, dai, dimmi qualche cosa tu. Forse magari non mi sono spiegato bene io poco fa. Quando io ho cambiato l'antenna, non tanto di segnale in trasmissione, ho notato che ho modulando i watt sono aumentati con la boomerang. Prima modulati erano 5, adesso modulando con questa antenna me ne dà 6,5-7, ok? Quindi non è questione di strumento di smitter del corrispondente, è qua proprio l'osmetro il wattmetro che mi sta dicendo che praticamente con questa antenna sto uscendo più con potenza in più, ok? Sì, quello ho capito, già l'ho capito quello, sì, certo, evidentemente. Ma è sempre stata così, guarda, ma la Regiobus è sempre stata un'antenna difettosa, ma da sempre però, no, non da adesso, no, da sempre, soprattutto quando piove, per carità. Lui, chi è che non si è lamentato? Tutti si sono lamentati, chi ha avuto la Regiobus si sono sempre lamentati, soprattutto per le stazionali. È un'azienda secondo me che non è proprio per niente riuscita, premesso che funziona ugualmente, questo sì, però è una delle più scadenti in assoluto, ecco. Non è certamente un avanzo, ma assolutamente no, è tantomeno una antenna, che so io, una Sigma o una Sigio, eccetera eccetera, no, assolutamente. Vabbè, comunque, vabbè, tanto questa è una cosa provvisoria che hai tu, dopo poi già ti si sente per venire, già lo so, ti avrei detto già tempo fa. Vabbè, riprendi. Chi è quello davanti? Avanti sul 10. Chi è, cosa ha detto? Io non lo sento già. No, c'è uno basso, mezzo al QRM. No, vabbè, sto... Poi c'era la portante, quella solita. Attenzione, Natale. Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare? Entri o non entri? E allora se no chiudiamo la porta e non se ne parla più. Già, chiudiamo la porta, il cancello chiudiamo, così poche luci e non sento più. Ehi, vabbè. Se stai mettendo la portante non ci fai vivere, ma sei un imbecille e basta. Se stai mettendo la importanza. Se poi stai cercando di entrare, non ti sentiamo, non è colpa vostra se non ti sentiamo. Se vedi Gianni. È propagazione, stanno parlando sotto di voi, è propagazione. Appunto, con l'avvocato l'ho detto anche a Gianni, ma è una propagazione, evidentemente così. E ti ha portato la cane già, qua. Sì, l'ho portato, non c'è nessun problema. Ha iniziato appena qualche gocciolina, dai. È propagazione, c'è uno con l'eco che sta parlando con un altro, è propagazione, no, non vi preoccupate, magari è che poi è abortante, cazzo non va nessuno, siamo quattro gatti, chi è che ci disturba? È propagazione già quando senti così, capito? Non ti preoccupare, vai già. Vabbè, strano, non mi sono preoccupando io, cioè. Vedevo solamente una portante sopra Giulio, cioè. E non ho documentato solamente quello che stava succedendo. Io già sono tranquillo e sereno, non ti preoccupare. Vabbè, perché se non c'è nessuno che avrei di tu, è propagazione anche qua, io vi sento, la sento sotto di te e sotto di Giulio, non ce la faccio superarsi, capito? Però è propagazione, no, non c'è da preoccuparsi, non ce n'è più cani morti che metto la portante. Non nessuno assassa, è tutto molto. Sì, Ragusa, stai sovramodulando un question locale, Ragusa, fai da bravo, un attimo regolata, Ragusa. Stai scherzando Massimo, ciao, buonasera, ben ascoltato. No, ti ho detto datti una regolata, perché qua in questo locale ti ascoltavamo, qua a Sassari, Nord Sardegna. Ciao Massimo, buonasera, ben ascoltato, 5-9 più qua in città di Sassari. Claudio Sparviero, l'operatore. Massimo, ciao, buona serata. Di Monica, provincia Ragusa, mi saluta, passando di canale, c'era uno che voleva tornare. Un attimo Ragusa, aspetta, un attimo, mi devi dire per cortesia se mi ascolti, Giulio da Sassari, Giulio Dolla da Sassari, vai Ragusa. Sassari, ascolto, non è più con uno che prevede veramente 5 computer. Ok, ti ringrazio, 8-5 per te, 5-8 per te, è una radio molto bella, va benissimo, ti ascolto molto bene, va bene, ti ringrazio, se devi andare vai pure, se no se vuoi rimanere qua fai questo con noi, lo so, decidilo tu. Va bene, ragazzi, che sento sotto qualcuno che stava chiamando, io vi lascio in pace, sono Rodi Cordiali, buona serata come sempre. Ci ascoltiamo nelle prossime, se c'è qualcuno che stava chiamando sull'8, canale 8, Buona serata a tutti. Ciao Massimo, ciao, alle prossime, 9:10 questo passaggio, Massimo. Ciao, complimenti veramente. Ciao, alle prossime. Avanti Gianni. Salutoni Massimo, sempre qua dalla città di Sassari, operatore Gianni. 7351 anche a te, dai. Propagazione permettendo. Comunque anche qua segnalone 9 pieno. Ok, Radio Super 5. Avanti. Quello che mi sta chiamando sotto, canale 8, quello che mi sta chiamando sotto. Ciao Massimo, buona greca, alle prossime, vai Giulio. 9:10 arrivava qua, è per quello che stavo un po' sentivo sotto di voi, dai, soprattutto sotto di Gianni. Tu sei un pochino più alto, Giulio, avanti. Ok, ciao di nuovo Massimo, salutoni, grazie per il controllo, alle prossime se stai ancora ascoltando. Buono questa greca sul canale 8, ciao. Sì, qua, certo, qui, ripeto, arriva benissimo, alla grande, tu lo sai, non è già la condizione in cui sono io, con questo dipolo, come vedi, è abbastanza efficiente, per cui va benissimo così. No, io lo sentivo 8, ho modulato 9, 9, 5, però la radio era 5 perfetta, va benissimo così. Avanti, Gianni. C'è Tino che sta parlando con Massimo, si è agganciato a Tino, li ho sentiti qua sull'8. Ah, ho capito, con Tino sull'8, va bene così, non c'è problema. Va benissimo, che ne so, le 8 meno 4 minuti, le 8 meno 4 minuti, tra un po' qua si cena, dunque, vabbè, già mi chiamano, dai, già mi chiamano, sapete qua? Sì, aspetta. C'è qualcuno che sta parlando sotto? C'è Pino insieme a Massimo a Sicilia sul canale 8, ogni tanto arriva qualche splatter. Non scherzo, ci buono i ludesi, noi siamo all'inizio e ci mette nell'otto, non ne potremmo bene. Io non lo sento, sento gente parlare in preparazione sotto mattino, non lo sento. Come c'è un po' 4:40, si attacco dalla 48, è una cosa allucinante. Vabbè. Dai, comunque io vi saluto perché sono le 8, sono andato a salutarvi e a dirvi appunto che c'era questo in propagazione che era sotto, sono le 8, passate, vado a vedermi un TG e poi si cena, vai. Ciao Giulio, ciao Gianni, lo profeta, Massimiliano sei in ascolto, insomma tutti quelli che sono in ascolto su 10, dai. Buon fine serata a tutti e buon inizio di domenica per domani, ma già ci sentiamo domani sera, vai, tanto se piove sono a casa. Ciao a tutti, buon proseguo, a te Giulio. Ok, qua, ciao, ciao, buona serata anche a te e buona sera per la farai. Sì, domani piove, dunque, come fai a uscire? Che si muovi da loro? Oh, ma nemmeno per idea, sì, sarò sicuramente al baracchino se Dio vuole, per cui avremo modo di sentirci di nuovo. Ciao qua, buonanotte, alle prossime, avanti Gianni per Claudio che chiude. Ehi, claro che sì, dai, a mañana buona carica, ok? Dai, a domani. Bene, bene, bene Gianni. Allora ti dà fastidio Tino, con di flatter, però io non lo sento, la verità. Vabbè, io ho la radio, per cui no, è la stessa radio che a Claudio, per cui non lo sento. E tu lo so, se col baracchino sarà per quello che lo senti. Sì, vabbè, quando c'è qualcuno dall'altra parte gli splatter non entrano, quando non c'è nessuno chiaramente si sentono gli splatter sull'otto. Ok, oh, può essere anche che abbia aumentato un pochino la potenza, non lo so, va bene. Hai visto che arrivi anche in Sicilia o Gianni? Tu hai una bellissima posizione lì, è tutto libero lì, da tutte le parti, lì, a 360 gradi, dove sei tu? Intanto hai una casa che è molto alta come palazzo, per cui, e poi è tutto aperto, non c'è niente, non c'è nessun ostacolo che non c'è lì, e va benissimo, hai una posizione invidiabile veramente. Tu immaginati con un'antenna tutto come si deve, quante soddisfazioni puoi avere facendo niente. Gianni. Guarda, avanti ieri mattina ne ho fatto diversi, ho parlato con l'Inghilterra, regione dello Yorkshire, poi ho parlato con la Spagna, ho parlato con uno a Cartagena, Javier, ho parlato con Joseph dalle Asturie, poi ho parlato con l'Andalusia, poi in Alta Italia con Casale Monferrato, Novara e Bergamo. Sì, ma certo, quando c'è preparazione, problemi non ce ne sono, anche dalla macchina, uno con la macchina, basta avere una antenna discreta e parla ugualmente. Quando la preparazione si apre, che è proprio forte, e caspita, e poi visto, l'evidenza ce l'ha dimostrata anche poco anche quello di Ragusa, Massimo, che addirittura dava, non dico fastidio, ma comunque si sentiva che era sotto quando parlavo io e noi siamo vicini, lui è a Ragusa, non è lì dietro, per dire no. Sentite la potenza della propagazione quanto è importante. Certo, certo. In Spagna agli Asturi arrivavo a Santiago 5, figurati. Appunto, sentito, ma a Santiago 9, vabbè, da qui sì, con questo pezzo di filo, Santiago 9 con un pezzo di filo messo nella situazione che sono io e nella posizione che ce l'ho, figurati, se dovessi metterlo in alto sicuramente guadagni di parecchi punti esse. senza dubbio questo è più che scontato, perlomeno per questo è nella logica del discorso, dovrebbe essere così. Certo, vabbè. Mettendo in considerazione il fatto che io il GX ho fatto con 5 watt, quindi è già un grandissimo risultato. Guarda, io ne ho 10, anche in questo momento ne ho 10. 10 watt di potenza, non ti credere che ne abbia poi tanto più di te, per cui non sto dicendo, tutto si tratta sempre di sapere con quale intensità si apre la propagazione. Quando la propagazione si apre anche con un antennino tranquillo e pacifico, guarda, se ti vuoi togliere la curiosità mia, anche con quel portatile che tu stavi provando stasera, quando c'è propagazione buona però e quando è buona veramente, se ti metti lì sul tetto dove eri tu, io sono convinto che ti sento anche con quel portatile, guarda. Certo, sì, ma ne sono sicuro. Infatti, quando adesso vediamo più avanti, quando ci sarà la giornata ideale voglio provare col portatile. Appunto, la propagazione deve essere proprio quella bella, proprio buona, non una propagazione così evanescente, deve essere una propagazione piena proprio di segnale, in modo che possa tu intanto sentire bene e allo stesso tempo farti sentire, e sono convintissimo che ti sentano, perfetto, quando la propagazione è buona. Questo non c'è dubbio, guarda, assolutamente. Andavè, mi sto finendo di rubare una sigaretta. Fuma. Però io tra un paio di minuti scendo qua per la cena, perché sono sicuro che mia moglie ha già apparecchiato anche. Ancora non mi ha chiamato, ma sono sicuro che è questione di qualche minuto, ma proprio qualche minuto. Mentre stai parlando avevo trovato un segnale sotto, sicuramente, per via della propagazione. Sì, ma c'è sempre, quindi quando c'è propagazione c'è sempre, almeno un piccolo rumorino si sente, un piccolo innesco, che so io, si sente sempre, anche se noi siamo vicini e non sono lontani, non si può dire di no. Eia. Allora, stazionarie quasi a 1 e 2. Ok, già va bene, così va benissimo, figurati, alla grande, veramente. Va bene, beh, sai cosa dico già, adesso scendo io, dai, l'anticipo io mia moglie, così almeno non mi chiama nemmeno, se no mi fa scusare anche il telefono. Ci sentiamo, ciao Gianni, sai cosa faccio? Siccome io ho due PMR, gira a dire uno lo metto giù e uno lo metto qua su, così quando mi deve chiamare a sincronizzare il telefonino mi chiama al PMR, quasi faccio così. Vabbè, ciao già, ci sentiamo, io vado a cenare, dai, ciao, grazie per la chiacchierata, a domani, ciao, ascolto Pivanino poi chiudo. KK, sì, vabbè, grazie al QSO, buona carica, buon tutto, ci aggiorniamo domani, ok, buona serata. Ok, ciao Gianni.